Era il 14 febbraio del 1509, quando, 3 ore prima dell'alba, mio padre irruppe gridando nella mia stanza, Darkos, autoritario e duro, come nei momenti peggiori della mia infanzia. Mi fece alzare dal letto per obbligarmi a mettermi in viaggio per Tordesillas. Sono sicura che contasse sulla mia sorpresa, e come poteva non sorprendermi quell'ordine perentorio che mi strappò dal sonno profondo delle prime ore del mattino per forzarmi a mettermi in viaggio. Pensai che la peste fosse alle porte o che fossimo minacciati da una sommossa. Pensando alla sicurezza di Caterina, confusa dalla gioia dell'arrivo del piccolo Ferdinando con il nonno, acconsentii a prepararmi per il trasferimento, contagiata dalla solerzia con cui lavoravano coloro che attorno a me si affannavano a impacchettare, imballare mobili, arazzi, tende. Arrivando nel cortile, vidi il carro tirato da cavalli con il feretro di Filippo, i portatori di fiaccole e i sacerdoti del mio seguito. Donna Maria de Ulloa, ancora con gli occhi cisposi per il sonno, teneva in braccio Caterina che piangeva spaventata. La presi e la feci montare con me sul mio cavallo Galan. Ci mettemmo in marcia in una lunga processione sotto l'attenta sorveglianza di mio padre. Gli abitanti del luogo uscirono a salutarmi, molti di loro con la camicia da notte sotto le casacche. Avanzammo adagio, attraverso le incolte pianure castigliane intervallate qua e là da boschetti ombreggiati di pini dove ci fermavamo a riposare. Stormi di uccelli si alzavano di colpo sulle nostre teste, andando e riandando al duero, il cui mormorio si cominciava a sentire in lontananza. Ricordo bene, mentre ci avvicinavamo, la sagoma del convento di Santa Chiara sul lato destro del ponte di pietra che attraversammo per entrare a Tordesillas. Prima di essere abitato dalle monache di clausura, il convento era stato un palazzo molto bello, fatto costruire da Alfonso XI per ricordare la battaglia del Salado. Pietro I, il crudele, aveva vissuto lì la storia d'amore con Maria de Padilla. Quando questa morì, il re ordinò alla figlia Beatrice di donarlo alle Clarisse. Filippo e io lo avevamo visitato durante il primo viaggio in Spagna. In quell'occasione ci eravamo seduti sotto la volta ricoperta d'oro della cappella in stile mudéjar. E Filippo dovette ammettere che nessuna chiesa nelle Fiandre poteva vantarsi di avere un soffitto a cassettoni tanto splendido. Né lui né io, allora, potevamo immaginare che quel soffitto avrebbe protetto il suo cadavere per 16 anni. Sul lato sinistro della cittadina, dietro le mura, vidi la chiesa di Sant'Antolin e il camminamento esterno che la univa al palazzo, al termine del quale si ergeva un bel campanile che finiva con un tetto conico. Da lì si riusciva sicuramente a vedere l'ampio fiume che strisciava come un serpente verde tra gli alti canneti delle rive. Le cicogne occupavano le torri che si profilavano a distanza e i loro nidi sembravano gomitoli grigi che si sostenevano in equilibrio precario sulle alte cupole e le costruzioni della città. Finalmente arrivammo al palazzo, seguiti dallo sguardo degli abitanti della cittadina che si affacciavano per vedere la strana processione che in più di un modo avrebbe cambiato la loro vita. Salutai a destra e a sinistra, ormai completamente sveglia, spaventata. Cominciavo a prendere coscienza che non potevo aspettarmi niente di buono da quel trasferimento intempestivo. Il palazzo di Tordesillas era di media grandezza, costruito recentemente per il re Enrico III. Era stato forse confortevole e signorile, ma da allora, dato che non veniva utilizzato, era quasi privo di mobili. Quando Filippo e io vi avevamo pernottato, mi era sembrato triste e trascurato. I saloni dalle ampie pareti di mattoni erano immersi in un'atmosfera di abbandono e di decrepitezza. Non avrei mai immaginato che quella fosse la nostra ultima destinazione. Pensai che fosse un altro spostamento. Giorni addietro mio padre aveva detto che la piccola città di Arcos, dove avevo risieduto per 18 mesi, non aveva più scorte per sostenere la corte. Andammo per prima cosa al monastero di Santa Chiara a deporre il feretro di Filippo nella cappella. La madre superiore ci aspettava e le monache di clausura stavano dietro le inferriate da dove assistevano alla messa. Quando il corteo entrò nella navata della chiesa, ordinai di accendere i ceri e rimasi a lungo lì a vegliare il mio morto. Caterina e Ferdinando dormicchiavano accanto a me, distesi sui banchi della cappella. «Aspetta qui!» mi ordinò mio padre, affidandomi alle cure di Donna Maria de Ulloa. Un'immensa stanchezza mi pesava sulle ossa. Pensai che il sollievo del ritorno di Ferdinando mi avesse sfibrato, portandosi via l'angoscia e la rabbia di mesi. Forse per questo motivo in quel momento mi vennero meno le forze e mi abbandonai a tutto ciò che sarebbe sopraggiunto. Con i miei figli accanto, qualsiasi luogo sarebbe stato sopportabile. Il palazzo di Tordesillas, vicino a Valladolid, poteva essere un buon posto per fissarvi la residenza. Mentre si recitava un responsorio per l'anima di Filippo e le monache cantavano il Dies Irae, mi appisolai. Previdi lunghe giornate uguali a Tordesillas, ma non sapevo ancora che quella sarebbe stata l'ultima meta del mio lungo peregrinare per la Spagna e per la vita. Mio padre se ne andò dopo avermi sistemata nel palazzo. Non tardai molto a capire che ero prigioniera. All'inizio mi aveva fuorviata facendo sistemare le stanze perché fossero più accoglienti e coprendo le pareti con arazzi per mitigare il freddo. Non so. Quando notai che le mie cameriere Anastasia, Maria e Cornelia si muovevano nervosamente, mormorando tra di loro e scambiandosi sguardi impenetrabili. Le chiamai per cercare di scoprire che cosa stesse succedendo e Cornelia, in lacrime, mi raccontò la conversazione che aveva ascoltato tra due guardie reali, battitori di Espinosa. Secondo lei, le guardie dicevano che Messer Luis Ferrer, al quale mio padre aveva affidato l'amministrazione del palazzo, gli aveva ordinato di impedire con qualsiasi mezzo che io uscissi in strada. Se andavo in chiesa, dovevo farlo attraverso il passaggio che metteva in comunicazione il palazzo con Sant'Antolin. Se si trattava di visitare il feretro di Filippo, loro dovevano accompagnarmi e creare attorno a me una barriera, in modo che nessuno potesse avvicinarmi o guardarmi, perché la regina è pazza e nessuno deve saperlo. Questo gli avevano detto. Terminò Cornelia piangendo, triste perché aveva dovuto riferirmi queste cose. Ordinai alle mie cameriere e a Donna Maria di abbigliarsi per andare a passeggio per la città. Mi si presentò davanti quell'omuncolo, Messer Luis Ferrer, era piccolo di statura, con il petto inarcato perché lo aveva tenuto a lungo eretto, per compensare con la postura quello che gli mancava in altezza. La testa rotonda era priva di capelli. Aveva invece una corta barba molto curata, mani con molti anelli e vestiti impeccabili. Io lo avevo visto spesso, ma non gli avevo quasi mai rivolto la parola. Gli occhi gli brillavano provocatori, mentre mi informava che per espressa disposizione del re Ferdinando mio padre, e dato che la peste si stava diffondendo nelle località confinanti, io non dovevo uscire dal palazzo. E come mai? Nessuno oltre a voi ha nominato la peste. Maestà, il vostro illustrissimo padre ha preferito non divulgare questa notizia per non preoccuparvi e per non creare inquietudine nella vostra corte, ma è bene che sappiate che questo palazzo è circondato dalla peste, come un'isola è circondata dall'acqua. Per il vostro bene dovete rimanere dentro alle sue mura. Sospettai che la scusa della peste fosse uno stratagemma per tenermi isolata, e lo era. Quando io tentavo di uscire, la peste mi girava sempre attorno. A volte pensavo di non avere altra scelta che quella di rassegnarmi a quella reclusione. Leggevo, pensavo, mi occupavo dei miei figli. Altre volte venivo presa a tal punto dalla disperazione che mi rivoltavo contro me stessa e contro tutti. Mi gettavo a terra, rifiutavo di mangiare, di lavarmi e piangevo giorno e notte per l'impotenza, posseduta da un odio violento verso mio padre che mi offuscava la mente e mi consumava le viscere. Ma non mi privarono solo della libertà. Poco dopo si portarono via mio figlio, Ferdinando. Dove sarebbe arrivata l'ostilità e la volontà di mettermi a tacere? Impossibile saperlo. Il palazzo era una caverna piena di ombre oscure. Un timore nuovo da bambina spaventata mi teneva costantemente inquieta. Disposi che Caterina, mia figlia, dormisse in un'alcova alla quale si poteva accedere solo attraverso la mia stanza. Di notte mi barricavo con lei, temendo che me la portassero via. Mentre a Tordesillas io venivo immersa nell'ingannevole realtà che mi veniva imposta come vera, Ferdinando, mio padre, ora senza ostacoli al governo della Castiglia e dell'Aragona, si dedicò alla conquista dell'Europa. Dopo 2 anni di alleanze e manovre, Ferdinando consolidò il suo potere a Napoli e in Castiglia. Le sue truppe entrarono in Navarra e la separarono infine dalla Francia, acquisendo così il controllo del passaggio attraverso i Pirenei. Nel 1509 Ferdinando firmò con Massimiliano un accordo che lo nominava custode e legittimo amministratore della mia persona e dei miei beni. Il documento mi riconosceva sì come regina, ma mi privava dell'esercizio dell'autorità regale perché mi considerava incapace di esercitarla. Legittimato nella sua funzione, Ferdinando venne a trovarmi nel 1510, accompagnato dal conestabile e ammiraglio di Castiglia, dai duchi di Medina Sidonia ed Alba, dal marchesi di Denia e dall'arcivescovo di Santiago, oltre che dai messi dell'imperatore Massimiliano. Entrò nei miei appartamenti di sorpresa, perché aveva saputo da Messer Luis Ferrer che io stavo attraversando uno dei miei momenti di ribellione e mi rifiutavo di mangiare, di vestirmi e di uscire dalla mia stanza. Voleva mostrarmi a queste personalità per giustificare la sua funzione di reggente. Io montai su tutte le furie quando mi vidi così esposta e insistei perché i visitatori rimanessero nel palazzo e potessero vedermi comportarmi da regina qual ero. Mi feci portare abiti regali, mi cambiai e mi presentai di nuovo a loro, ma il danno ormai era fatto. I nobili e gli ambasciatori mi avevano vista stanca e imbruttita. Difficilmente avrebbero capito che, con l'incuria della mia persona, io esprimevo biasimo per il modo in cui venivo maltrattata da Ferrer. Questo personaggio era giunto perfino a castigarmi fisicamente. Mi dava la corda, con il pretesto che lo faceva per obbligarmi a mangiare e salvarmi così la vita. Io non potevo informare nessuno di quello che mi stava succedendo. La segregazione alla quale mi sottomettevano aveva proprio lo scopo di non farmi comunicare con nessuno. Quattro delle mie dame, Francisca, Isabel, Violante e Margarita, appartenevano alla famiglia Ferrer. Il resto del personale era fedele a Ferdinando e al suo amministratore, Messer Ferrer. Almeno lo furono fino alla morte di Ferdinando. È rivelatore il fatto che mio padre prendesse tante precauzioni per isolare una pazza, no? Che costantemente si preoccupasse di riaffermare l'incapacità mia a governare. L'isolamento era assoluto. Messer Ferrer e più tardi la famiglia Denia mi impedirono persino di usare il corridoio esterno che conducevano alla chiesa. Temevano che mi mettessi a urlare lì. Come avrei potuto rompere quell'isolamento? Quante umiliazioni dovetti sopportare io nel palazzo di Tordesillas dal momento in cui arrivai nel 1509. Dalla rabbia presi il coraggio per non piegarmi, imparai a stare sola con me stessa, a parlare soltanto con Caterina e con Agustina, la mia lavandaia. Quando i soprusi e le crudeltà di Ferrer diventavano intollerabili, lo mandavo fuori di senno rifiutando di alimentarmi. Sapevo che il fatto che rimanessi in vita era essenziale per i piani di mio padre. La mia morte avrebbe posto fine alla sua reggenza. I fiamminghi lo avrebbero spodestato dal trono di Castiglia e Aragona perché alla sua Germana, la gioventù, non aveva dato il dono della fertilità che lei tanto mi invidiava. Ferdinando non era riuscito ad avere l'erede che tanto aveva programmato. Un bambino nato in maggio era vissuto soltanto poche ore. Una volta portò la moglie a Tordesillas perché le rivelasse il segreto della mia prolificità. L'accolsi con gentilezza perché era poco più che una bambina, ma le chiarii che io non avevo fatto nient'altro che abbandonarmi al fuoco del mio amore. Ma a quale passione poteva aspirare lei, che doveva dormire con un uomo vecchio che russava e respirava fatica? Cercati un amante, fui tentata di dirle. Più tardi lo fece, io lo seppi. Ebbe una figlia, Isabella, con mio figlio Carlo. Disperato per la mia fermezza che non si piegava con il passare degli anni, Messer Ferrer osò un giorno fare ciò che era impensabile. Sei soldati mi portarono fuori dalla mia stanza e mi trascinarono come una condannata negli scantinati del palazzo. Poiché io ponevo resistenza e scalciavo, mi strapparono la camicia. Un uomo incappucciato mi frustò. Non piansi mentre sentivo il cuoio lacerarmi le carni, mi astrassi come ero abituata a fare e pensai alla musica della mia vita, alla nascita dei miei figli, all'amore di Filippo. La mia schiena crocchiava. Mi sembrava che un branco di gatti mi stesse torturando a graffi, ma non mi lamentai. Quanto singhiozzai invece quando rimasi sola. Mi venne in mente l'immagine di mia madre, vidi che anche lei piangeva dalla sua eternità di regina separata dai suoi figli. Nemmeno lei, che era tanto dura, avrebbe voluto questo per me. Maledetta sorte la nostra, di donne forti e temute dagli uomini. Dovevano imprigionarci, umiliarci, bastonarci per dimenticare il timore che gli ispiravamo e sentirsi re. Furono anni di ribellioni costanti, anni in cui presi nota delle privazioni patite e le mandai a mente sognando vendette che tradivano la mia educazione cristiana. Almeno la mia stanza dava sul Duero e la vista di quelle acque che scorrevano verso il mare aveva l'effetto di un balsamo sul mio cuore. Decisero di trasferirmi in un'altra ala del palazzo con la scusa che sarei stata più protetta dal freddo e dai fenomeni atmosferici, ma io non dovevo proteggermi dalla natura, bensì dagli uomini. Nessuna pioggia, fulmine o nevicata si era mai accanita contro di me come avevano fatto loro. Caterina ed io ci riducemmo come delle straccione. Vestita come il più povero dei miei sudditi, la mia bambina portava una giubba di pelle. Io invece ero vestita come una monaca di ruvida lana. Ma io e mia figlia avevamo il nostro mondo segreto. A lei raccontavo la mia vita come avrei voluto che fosse e le mie fantasie la intrattenevano. Mi faceva ripetere sempre le stesse storie. Le descrissi persino il nuovo mondo come se lo avessi visto. Le parlai di grandi foreste, di alberi sconosciuti, abitati da stormi di uccelli colorati. Le descrissi gli indios con i petti nudi e il loro oro brillante. Come poteva immaginare Messer Ferrer quanto fossimo libere noi dentro le quattro pareti della mia stanza? Una finestra sul Duero era sufficiente a farci navigare per mare e a farci scoprire mondi che solo la mia Caterina ed io avremmo calcato. Mio padre morì il 23 gennaio del 1516. Io avevo vissuto a Tordesillas 7 anni senza vedere un calendario e senza contare le settimane e i mesi, perché vedere che si sommavano gli uni agli altri mi dava angoscia. Quel giorno però, lo ricordo bene, mi svegliò il trambusto di tutto il paese radunato nella piazzetta di fronte alla mia finestra che chiedeva la destituzione e il castigo di Messer Ferrer. «Donna Juana! Donna Juana!» esclamava Anastasia esultante. «Lo portano via, lo portano via!» Salì sul campanile di Sant'Antolina e da lì lo vidi, spinto dalla folla che lo derideva. Qualcuno disse che mio padre era morto, altri lo contraddissero. Supposi che qualcosa di serio dovesse essere successo se la gente aveva osato scacciare Ferrer, stanca com'era delle storie che circolavano sui maltrattamenti cui sottoponeva Caterina e me. Ma il mio confessore mi assicurò che mio padre era vivo, anche se infermo. 4 anni sarebbero passati prima che io conoscessi la verità. Quel giorno chiusi gli occhi per un istante, accecata da un pianto improvviso, domandandomi se fosse vero. «Ahi, Giovanna, come sei diventata piagnucolona», mi dissi. E non piansi, anzi, mi sentii protetta dalle persone semplici che erano venute in mia difesa. Cisneros, che mi disprezzava, ebbe la benevolenza di nominare reggente della mia casa Don Hernan, duca di Estrada. Era bello Don Hernan, un uomo maturo che dal primo momento in cui mi vide non dubitò un istante né della mia salute mentale né della mia buona indole. Avrei potuto farne il mio amante. Sentivo che i miei occhi, la mia voce si posavano sulla sua pelle. Lui e io parlavamo come mai ho fatto con un uomo o con una donna. Per 2 anni fummo come Abelardo ed Eloisa e mi si placò la rabbia per le ingiustizie subite, ma non si riaccesero le passioni. È strano il corpo quando ha un padrone e il mio non avvertiva più i piaceri del letto. Tutto ciò che mi rendeva felice proveniva dall'intelletto. Nei bagni, nei profumi, nel contatto con la seta o il velluto svegliavano la mia carne. Ero un braciere spento e il carbone della mia cenere diventava cristallo, diamante. A volte mi immalinconiva ricordare quanto piacere mi avevano dato il mio sesso, i miei seni, ora pressati dalla biancheria intima, ma il chiarore della mia mente compensava l'assenza di turbamenti. Attraverso il cristallo della mia freddezza, il mondo era ambra che catturava miseri resti, un prisma che mi mostrava nelle storie che ci raccontavamo gli spigoli e le differenti sfaccettature degli esseri umani. Don Hernan ebbe pietà di me e fece aprire un'ampia finestra nella mia stanzetta, la mia piccina ora lanciamonete ai bambini di Tordesillas per poterli osservare mentre giocano nella piazzetta del palazzo e perché ritornino giorno dopo giorno. Da qui il pomeriggio la sento arbitrare i loro giochi e le corse e mi meraviglio dell'infanzia che non pone barriere alla sua immaginazione. È vero che Don Hernan potrebbe lasciarlo uscire, ma è un uomo. Teme gli altri. La sua bontà non arriva a tal punto. Mi dispiace dirlo, ma i mutamenti che avrebbero trasformato la mia reclusione in un persistente e inconsolabile supplizio iniziarono con l'arrivo a Tordesillas di mio figlio Carlo e di mia figlia Eleonora il 4 novembre del 1517. Ero lì da 8 anni. Gli ultimi anni erano stati sereni, grazie a Don Hernan. Il 6 novembre, giorno del mio compleanno, mi alzai, come sempre. Mi annunciarono la visita di Guillermo de Croix, signore di Crieve, che ricordavo dai miei anni nelle Fiandre. Non sapendo di che cosa si trattasse, lo ricevetti senza troppe cerimonie. Si presentò davanti a me con grandi formule di rispetto. Mi parlò di Carlo e di Eleonora, mi domandò se mi avrebbe fatto piacere vederli e risposi di sì, non era nemmeno il caso di chiedermelo. Non avrei mai immaginato che fossero tanto vicini. Erano arrivati 2 giorni prima. Senza che io lo sapessi, De Crieve si avvicinò alla porta e la aprì. Mi trovai davanti ai 2 giovani. L'ultima volta che avevo visto Carlo ed Eleonora, uno aveva 5 anni e l'altra 7. Erano passati 12 anni. Ora lui aveva 17 anni, lei 19. Sui loro volti, come l'orma di un fantasma, fluttuava la presenza di Filippo, confusa con l'immagine lontana dei miei ritratti giovanili. Riconobbi le creature nate dal mio amore. Si inchinarono davanti a me. Chiusi gli occhi. Circondata da miraggi, non avevo più certezze. Ma veramente siete figli miei? Chiesi, frastornata dall'emozione, divorandoli con gli occhi. Il volto di mio figlio era quello di Filippo, senza la bellezza di Filippo. Era il volto di un giovane stanco, senza luce. Eleonora invece aveva un portamento maestoso e il colorito chiaro e dorato di mia madre. Cominciamo a parlare. Si comportavano come principi borgognoni. Sia nei modi, sia perché non conoscevano quasi il castigliano. Gli parlai in francese. Si sorpresero. Ciascuna mia domanda li sorprendeva. Come se non riuscissero a capire che potevo ancora ragionare, e questo li aveva confusi più che se mi avessero trovata pazza da legare. Eleonora sorrise con naturalezza di certi miei commenti, ma in Carlo riconobbi la vecchia diffidenza che aveva nutrito fin da piccolo nei miei riguardi. Da quando ero ritornata dal mio primo viaggio in Spagna e lo avevo rivisto insieme a suo padre a Blankenburg. Pensai che fin da quel momento mi aveva rinnegata. Mi addolorò percepire che era a disagio, distante. Quella visita era una formalità per lui e non lo nascondeva. Incapace di superare l'intimo dolore di averli perduti senza scampo da molto tempo, li invitai ad andare a dormire, adducendo come ragione la loro stanchezza. Rimasi sola con De Crieve, che era il primo consigliere di Carlo. Con molto garbo mi illustrò le buone qualità del principe. Doveva essere una consolazione per me, disse, poter contare su un figlio come lui per amministrare gli affari del regno. Secondo lui, io dovevo abdicare in suo favore fin da ora perché mentre ero ancora in vita apprendesse quanto serviva a governare. Se davo il mio consenso, le Cortes lo avrebbero autorizzato a regnare assieme a me. Non mi sarei opposta, gli dissi. Supponevo che mio padre sarebbe stato d'accordo, cosa che mi faceva piacere. Chiedevo soltanto di avere il rispetto che mi era dovuto e il riconoscimento della mia figura, che regnasse a nome mio, che regnasse assieme a me, come mio padre avrebbe dovuto fare. Le Cortes posero 88 condizioni per acconsentire a Carlo di regnare. 3 di esse riguardavano il governo della mia casa e la dignità della mia persona come legittima regina. Un'altra specificava che se Dio mi avesse restituita la salute, lui avrebbe dovuto ritirarsi e lasciarmi regnare. Quest'ultima ne fece un mio nemico. Quando Carlo, con il mio consenso, iniziò a regnare, fissò la sua attenzione sulla sorella Caterina. Nessuno di coloro che mi circondavano ignorava il mio amore per lei. Caterina era la mia bilancia, il contrappeso che mi manteneva dritta. Carlo, che era stato allevato con affetto da Margherita d'Austria a Malinas, rimase turbato dai suoi giochi alla finestra, dalla povertà del suo abbigliamento. Lui e i suoi consiglieri ordinarono un piano per rapirla, per portarla via da me. Dato che non c'era modo di entrare nella sua stanza senza passare attraverso la mia, scavarono un tunnel nel muro. Lo coprirono con un arazzo e una notte portarono via Caterina calandola in strada. Reagii come ci si poteva aspettare, mi lasciai morire. Ricorsi al digiuno assoluto, alla più terribile, inconsolabile disperazione. I miei servitori, Don Hernan, avranno sicuramente informato Carlo dello stato in cui mi trovavo. Per una volta le mie suppliche furono ascoltate e la mia ribellione ebbe effetto. Nel giro di 3 giorni Caterina ritornò. Si gettò tra le mie braccia e tutte e due singhiozzammo. Juana Cuevas, la mia cameriera, mi raccontò in seguito che la principessa aveva detto che se io mi disperavo, niente l'avrebbe fermata dal ritornare da me. Caterina ritornò, ma quell'episodio fu solo l'annuncio di quello che stava per avvenire. Appena 3 mesi dopo la sua visita, Carlo rimosse dal mio servizio il buon Don Hernán, duca di Estrada, e al suo posto, il 15 marzo del 1518, arrivarono a casa mia Don Bernardo de Sandoval y Rojas e sua moglie, Doña Francisca Enríquez, marchesi di Denia. La mia pace terminò il giorno in cui se ne andò Don Hernán. Quando ci salutammo, mi lagnai che nessuno mi avesse consultata. Entrambi siamo servi di altri, Doña Juana, mi disse colui che nonostante tutto aveva tentato di essermi amico, colui che aveva nutrito nell'intimità della mia prigionia il mio spirito di donna. I Denia mi circondarono di un muro di volti, di mani e di occhi, eressero pareti di silenzio e di oblio per imprigionarmi e mettere a tacere l'evidenza del mio raziocinio, che era una minaccia per coloro che non si fermavano di fronte a niente pur di usurparmi il trono. Gironi infernali chiamavo io i capi con cui soffocarono la mia voce, ed erano tre. Nel primo, due donne montavano la guardia giorno e notte dentro la mia stanza, togliendomi il sollievo dell'intimità e il piacere della mia stessa compagnia. Il secondo era formato da 12 dame che mi circondavano con il pretesto di occuparsi di me. Attorno a loro, a chiudere il terzo girone, c'erano 24 guardie armate. Mi proibirono di andare a Sant'Antolin, mi proibirono di andare a Santa Chiara. Il marchese di Denia, bianco di capelli e di pelle, occhi azzurri grandi, senza emozione, era un modello di buone maniere. A ogni riverenza mi infilzava con un pugnale, ma pretendeva che io non lo sentissi. Per giustificare la reclusione, anche lui, come Messer Ferrer, accennava alla peste o agli ordini di mio padre. Come potevo pensare che mio padre fosse morto? Mi disse una volta in cui gli espressi un dubbio. Era malato e si era ritirato in un monastero dove passava i suoi giorni a lodare il Signore. Dovevo scrivergli. Sarebbe stato contento di avere notizie della figlia Giovanna. Scrivetegli voi, marchese, gli dicevo io. Scrivetegli voi che siete suo cugino e salutatelo da parte mia. I Denia erano dei despoti nei riguardi dei miei fedeli servitori, ma andavano in chiesa a manifestare a statue di legno la devozione che non sentivano per i loro simili. Le cerimonie religiose mi sono sempre sembrate riti pubblici che poco facevano per elevare lo spirito. Fin dai tempi delle Fiandre non sono mai stata incline al fervore religioso. Preoccupati della mia anima, i marchesi organizzarono messe nel salone del palazzo per obbligarmi ad adempiere ai miei doveri nei confronti di Dio senza vedere la luce del sole. Respinsi le loro richieste e acconsentii ad andare in chiesa solo se mi permettevano di attraversare il corridoio esterno al palazzo fino al campanile di Sant'Antolin. Da lì scendevo alla cappella degli Aldarete, più per vedere il paesaggio che per rendere lodi a un Dio che mi aveva dimenticata. Scatenai contro i Denia una guerra senza quartiere, usando le poche armi di cui disponevo. Stetti in guardia perché nessuno mi prendesse di sorpresa. Ma l'ignoranza di ciò che succedeva fuori delle mura del palazzo era l'arma su cui contavano i miei carcerieri. Mentre io marcivo in prigione, la Spagna veniva depredata. Le ricchezze provenienti dall'America si allontanavano nelle navi dirette alle Fiandre. Stranieri occupavano le più importanti posizioni. Un ragazzino di 17 anni fu nominato arcivescovo di Toledo e ad Adriano di Utrecht fu assegnata la carica di governatore della Castiglia. Quando mio figlio Carlo partì per essere incoronato imperatore del Sacro Impero Romano-Germanico il 20 maggio del 1520, il popolo, stanco dei continui abusi dei fiamminghi, si ribellò. La sommossa fu guidata da Juan de Padilla di Toledo, figlio di Don Pedro, uno dei miei fedeli difensori. La Santa Junta de las Comunidades, come si fecero chiamare i ribelli, dichiarò di sollevarsi a servizio della regina Doña Giovanna. Io ero solita sedermi con Denia a interrogarlo sullo stato dei miei figli, dei miei regni. Lui si agitava, era a disagio. Una volta lo trattenni per 6 ore, decisa a non congedarlo finché non avesse parlato. Ma questo signore mi dava solo risposte ingannevoli e volle farmi credere che mio suocero Massimiliano avesse abdicato in favore di Carlo e che per questo sarebbe stato incoronato imperatore, come se io non potessi pensare che mio suocero era morto. Appena 2 giorni dopo questa conversazione scoprii che Deni aveva fatto chiudere il passaggio attraverso cui io raggiungevo il campanile di Sant'Antolin. Protestai, gli ordinai di farlo riaprire. Stavamo discutendo di questo. E il marchese mi ribadiva il suo rifiuto quando giunse il vescovo Rojas, presidente del Consiglio del Regno di Castiglia, per chiedermi di firmare un decreto di condanna dei comuneros che si erano sollevati in armi. Denia non poté evitare che mi riunissi con il vescovo. Fu quest'uomo pallido e sudaticcio che era arrivato davanti a me, intimorito per i disordini che si diffondevano come un incendio, che mi mise al corrente della morte di mio padre, avvenuta 4 anni prima. Dalla sua bocca seppi anche della morte di mio suocero. Da quello che mi riferì, dedussi che la gente si era sollevata perché mio figlio stava cedendo il governo della Spagna agli stranieri. La ribellione cresceva, mi disse. Ai ribelli si erano uniti i contadini, scontenti dei territori feudali. Credetemi, signor vescovo, gli dissi. Tutto ciò che vedo e che sento mi sembra un sogno. Da 16 anni nessuno mi dice la verità. Tutti mi maltrattano. Il marchese qui presente è il primo che mi inganna. Il vescovo guardò il marchese e per la prima volta in tutti quegli anni vidi il timore sul suo volto e la cosa mi rallegrò il cuore, soprattutto quando lo sentii giustificarsi contrito dicendo che si era visto forzato a mentirmi per guarirmi dalle passioni. Non volli firmare niente finché non avessi verificato la veridicità di ciò che mi diceva. Il 29 agosto ricevetti coloro che si presentavano come capitani dei comuneros, Juan de Padilla, Juan Bravo e Francisco Maldonado. Ascoltai le loro proteste e le loro ragioni e gli raccomandai che facessero quello che consideravano più favorevole agli interessi del regno. Le cose erano accadute in maniera tanto rapida e avevano raggiunto una tale veemenza da farmi pesare la mia ignoranza. Sentivo che la mia vita era piena di falsità e dubitavo della mia abilità di discernere tra la verità e la menzogna. A metà settembre, un'autorità della Santa Junta delle Cortes cacciò via Idenia e le dame di compagnia che mi tenevano prigioniera. Io mi affacciai al balcone per salutare l'enorme folla che si era radunata davanti al palazzo. I capi della rivolta e il popolo stesso mi chiedevano di affrancarmi da Carlo e di occuparmi del regno, di espellere i fiamminghi e di impedire loro di continuare a impadronirsi delle ricchezze e dei tributi della Spagna. Fu bello sentire l'affetto che mi dimostravano persone che non avevo mai visto, ma alla leggerezza che provavo nel sentirmi libera si contrapponeva il peso dei dubbi sul comportamento da tenere. Tanti anni di reclusione mi avevano trasformata in una donna timorosa. Che cosa ne sapevo inoltre di governo, se da quando ne avevo memoria non avevo fatto altro che sfidare l'autorità e disprezzarla? Chi mi assicurava che anche questi non mi rinchiudessero se facevo ciò che pareva giusto a me e non quello che volevano loro? Avevo sempre detto che non volevo essere regina e ancor meno se esserlo voleva dire mettermi contro i miei figli. Non potevo dimenticare che coloro che si offrivano di servirmi avversavano Carlo e avevano bisogno di me per spodestarlo. Avevo bisogno di tempo per pensare, per cercare la verità. Era una grande responsabilità, quella che improvvisamente e senza averla assecondata mi cadeva addosso. Decisi di prendere tempo e intanto non posi il sigillo né la firma su niente. Ancora una volta, nessuno mi comprese. Cominciavo appena a recuperare la voglia di vestirmi in modo adatto al mio rango, l'autorità di nominare i miei accompagnatori, l'odore dell'aria fuori delle quattro mura del palazzo quando i comuneros persero la pazienza e decisero di obbligarmi a firmare le loro disposizioni. Arrivarono a minacciare di non dare più da mangiare a me e a Caterina se mi fossi ostinata a prendere tempo. Alla fine fu forse la paura a condannarmi e persi l'unica opportunità di salvarmi dal mio destino. Ma glielo dissi e ripetei. Ripetei loro di lasciarmi guarire, di aspettare che si schiarissero nella mia mente le nebbie di tante menzogne e di tante lacrime. I nobili ritornarono sulle loro decisioni e soffocarono la ribellione. Un traditore spianò loro il cammino, Pedro Girón, che sostituì il fedele Juan de Padilla al comando delle truppe dei Comuneros. Girón permise loro di riconquistare Tordesillas. 75 giorni durò la sommossa e tra il 5 e il 6 dicembre Tordesillas si arrese alle forze del re. Attesi i grandi nel cortile del palazzo tenendo per mano la mia piccola Caterina. Una mia firma sarebbe bastata a porre fine al potere di Carlo in Spagna, ma in cambio di gratitudine mio figlio non ebbe la gentilezza di darmi nemmeno la serena libertà che meritavo. Al contrario, Carlo reintegrò Idenia e mi lasciò alla mercé dei loro soprusi, ostili e arroganti con il potere conferito loro da Carlo. Idenia tornarono a governare nella mia casa. Non mi liberai di loro fino al giorno della mia morte. Che avvenne un venerdì santo, il 12 aprile del 1555. Avevo 76 anni e dal 1509, dall'età di 29 anni, ero rimasta prigioniera a Tordesillas. I Denia non cessarono mai di mantenermi in un mondo sconvolto dalla falsità, un mondo senza finestre, dalle stanze buie, abitato da persone ostili che ridevano di me e mi mortificavano senza pietà. Morii, coperta di piaghe, con la cancrena, ribelle fino all'ultimo giorno, rifiutando le cure che volevano dispensarmi, rifiutandomi fino alla fine di assistere alle messe e ai riti religiosi. Quando morii, si completò il saccheggio dei miei beni, che avevo subito dai miei figli e dai Denia. Fine.